La vita in un film di Franco D'Assisi. Tu, Guastariti è il primo della classe. Vivaldi che fa? Mette 6 in italiano e 6 in storia. Preside, Guastariti non è bravo. Guastariti è un primo della classe. Guastariti non c'ha i capelli tagliati alla moicana. Non si veste come il figlio di uno spacciatore. Non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Guastariti è pulito, perfetto. Interrogato si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli. Ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro. Alla fine gli metto 8, ma vorrei tagliarmi la coda. Aspetti, tagliatela. Ma perché? Ma perché Guastariti è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno. Buonasera da Franco D'Assisi, La vita in un film, il nostro programma che ogni sera indaga l'identificazione fra la gente e i film, il cinema. Siamo in una serata nella quale vogliamo parlare di scuola, anzi il tema è a scuola oggi, ovvero quanti film hanno raccontato le vicissitudini della scuola, in quanti film ci siamo rivisti noi scolari, magari piccoli all'elementare oppure più in là alle superiori, oppure professori, come nel caso del prof interpretato da Silvio Orlando nella scuola di Daniele Lucchetti, 1995, forse negli ultimi anni il film più emblematico che sia stato fatto in Italia proprio su questo tema. 800 24 00 24 è il numero di telefono di Radio 24 per partecipare alla vita in un film, per dirci in quale scolaro, in quale professore vi siete visti, avete rivisto un pezzo del vostro percorso scolastico, sempre chiaramente partendo da un film, per ricevere biglietti per il cinema, un'altra simpatica consuetudine della nostra trasmissione, insomma per fare parte integrante di questa mezz'ora a parlare di scuola nel cinema. Ed è con noi già in collegamento Daniele Lucchetti, che saluto. Buonasera Daniele. Buonasera. Allora, abbiamo sentito la tirata di Silvio Orlando, no? Che dice una cosa: alla fine la scuola funziona solo per chi non ne ha bisogno. Partiamo da qui, Daniele, perché nel 1995 sentisti il bisogno di raccontare la scuola proprio dal punto di vista dei professori? Ma perché io ho sempre pensato che se non fossi stato un cinematografo sarei stato un professore, e anche adesso che faccio il regista, di fatto amo passare una parte dell'anno nel centro sperimentale o il DAMS, dove tengo ogni tanto dei seminari di regia. E penso che sarei stato appunto un professore molto simile al professor Vivaldi della scuola. Senti, un film che è arrivato in un momento nel quale non è che si parlasse molto di scuola nel cinema italiano, se non sbaglio, e tra l'altro era da tanti anni che non si facevano film che avessero appunto questo tipo di punto di vista, cioè un'analisi. Invece da quel momento in poi la scuola è ritornata ad essere un po' un tema su cui il cinema internazionale ha dibattuto, fino ad arrivare alla classe di Laurent Canté, che l'anno scorso vinse il Festival di Cannes. Ti chiedo, per esempio, rivedendo La classe, se hai avuto l'opportunità di vederlo, hai visto qualcosa anche del tuo lavoro? Cioè, ti sei sentito anche un po' padrino di quell'iniziativa? Ma guarda, non completamente, nel senso che quello è un film bellissimo, ed è un film sicuramente più moderno della scuola. La scuola è un film che ormai ha una quindicina d'anni. Quando l'ho fatto, credo che non mi interessasse particolarmente il rapporto con la presa diretta con il reale. Ma tendevo a raccontare il reale sotto forma di grottesco, con un occhio alla commedia, con un occhio alla caricatura, con un occhio al surreale anche. Evidentemente mi sembrava, cioè, era quello che mi rispecchiava di più in quel momento. Però ecco, da spettatore e anche da regista, credo che La classe sia un film che fa un passo avanti, non ha più paura, non ha più bisogno di mascherare la realtà con gli artifici del cinema come ho fatto io nella scuola. E di fatto è un cinema più moderno, insomma, più. Oggi il cinema ha un grosso problema, è quello di differenziarsi dalla televisione. E 15 anni fa questo problema c'era molto meno. Noi così, in certo senso, eravamo più liberi di usare anche dei toni che oggi, per esempio, la televisione poi ha preso dal cinema, anche da magari dai miei o da altri film, mescolando appunto commedia, tragedia, intelligenza, riflessione, argomenti forti. Oggi dal cinema, secondo me, è richiesto di essere più puro, ecco, in questo senso La classe è un film più puro, più pulito. Certo, ecco, tra l'altro avremo anche modo di sentire alcune produzioni proprio televisive che sono state fatte recentemente, come O professore di Maurizio Zaccaro. Allora, visto che abbiamo evocato Laurent Canté, io vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per partecipare a questa puntata della Vita in un film, dove parliamo di scuola e vi chiediamo proprio di raccontarci in quale scolaro del cinema vi siete rivisti, scolaro appunto o professore. Dicevo, sentiamo un breve passaggio proprio della classe di Laurent Canté e poi una dichiarazione del regista francese proprio su questo film che racconta la scuola come specchio della società. Sentiamo. Qualcuno avrebbe dovuto avvisare e io non ci sarei proprio andato a scuola, avrei lasciato perdere. E invece nessuno mi ha detto niente e mi hanno fatto prigioniero a 6 anni, una creatura, e non mi hanno rilasciato più. E a che punto? Non so. Ma in 30 anni di insegnamento avrò avuto 3-4 mila alunni e uno, ma dico uno, che abbia fatto carriera. Nessuno. Ma perché in 30 anni di carriera non ho incontrato nemmeno un membro della futura classe dirigente? Tu te le poni queste domande? Perché la classe dirigente non viene a studiare il francese da me? Ma che ci ho fatto io alla classe dirigente? Ecco, non era la classe, era la scuola di Daniele Lucchetti, un altro passaggio davvero molto interessante, questo raffronto del professore con il mondo poi del lavoro. Cosa ci ho fatto io alla classe dirigente? Questa è una grande domanda. Ritorniamo invece a sentire la classe di Laurent Canté e il regista francese. Il buffo è che sembrate tutti convinti che la vostra vita non sia interessante, cioè non avete idea. Prof, ma che cosa fai in fondo? La scuola, mangi, dormi. Ah sì? Cioè, allora tu vai a scuola, mangi e dormi, ok, bene. Dunque, si può dire che, a giudicare dai fatti, la tua vita non è appassionante, ma quello che provi è interessante. Ma riguarda me questo? Sì, ma a me è questo che interessa. Oui, moi j'avais l'image comme ça d'une classe qui deviendrait une espèce de microcosme. L'idea era quella di una classe che rifletteva tutto un microcosmo, dando un'immagine della società nel suo complesso. A scuola, infatti, si impara ad essere cittadini. Era questa l'immagine e l'idea che avevo in testa quando ho iniziato a scrivere la sceneggiatura. Volevo un film che si svolgesse interamente all'interno delle mura scolastiche. È lì che gli adolescenti cercano la loro identità e il loro posto nel mondo. I muri della scuola non sono impermeabili. Tutti i problemi della società li attraversano. All'interno della scuola ci sono i germi di ciò che la società non vuole vedere. I problemi sono là, ma spesso non li si vuole guardare in faccia. A scuola si è costretti a guardarli in faccia. Mais qu'on préfère ne pas prendre en compte. Là, dans ce petit espace, ben, on est obligé de les voir. Ed eccoci di nuovo insieme alla Vita in un film. Stiamo parlando di scuola, in quali film abbiamo rivisto qualcosa del nostro percorso scolastico. Abbiamo in linea i primi ascoltatori all'800 24 0024. Cominciamo con Nicola da Milano. Buonasera, Nicola. Sì, buonasera a voi tutti. Grazie. Ciao. Per aver aspettato qualche minuto. Ci mancherebbe, grazie a voi. Allora, qual è il film dove si è rivisto o dove magari ha sperato di rivedersi? Sì, no, io volevo ricordare il film L'attimo fuggente, perché ecco, in particolare mi è venuta in mente la scena dove la classe esprime la sua solidarietà al professore salendo in piedi sulla sedia e salutando il professore con la frase capitano mio capitano, no? Quando danno il commiato all'insegnante che viene mandato via dalla scuola. Beh, Nicola, però forse questo più che un rivedersi immagino sia stato un auspicio, una speranza, almeno che tu non sia stato così fortunato da avere un professore così. Ho avuto la fortuna di vivere nel mio piccolo questa scena, perché io appunto, ho seguito studi classici e ho insegnato dopo la laurea per un anno. È stato un anno bellissimo per me, è stata un'esperienza veramente fantastica, e soltanto che è durato un anno soltanto perché poi niente, destino ha voluto che seguissi altre strade lavorative, altri percorsi, per cui adesso mi occupo di tutt'altro. E allora, questa esperienza è stata veramente toccante, perché quando ho salutato la classe dove avevo insegnato italiano per 2 anni, i ragazzi hanno proprio ricalcato quella scena salendo sulla sedia e salutandomi in quel modo. Quindi l'hai vissuta da insegnante. Nicola, grazie per aver telefonato. 800 24 0024. Per Nicola c'è il cofanetto Wasoo 5 serate di grande cinema per andare al cinema durante il corso della prossima stagione. Sentiamo un passaggio dell'attimo fuggente e poi torniamo da Daniele Lucchetti. Vuole aprire il suo libro a pagina 503? Legga la prima strofa della poesia che ci trova. O vergine, cogli l'attimo che fugge? Sì, proprio quella. Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola. E lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. Grazie mille, Piz. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Carpe diem, cioè cogli l'attimo. Molto bene, signor. Mix. Mix, Cogli l'attimo, cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché va di fretta. No, ding! Grazie per aver partecipato al nostro gioco. Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Daniele Lucchetti, cosa hai pensato quando hai visto la prima volta L'attimo fuggente? Ma mi colpì molto, è un film che credo abbia commosso tutti. Era un periodo in cui però andava detto che il film era sdolcinato e ricattatorio. Io in realtà mi commossi lo stesso tantissimo. E io tra l'altro è un regista, Peter Weir, è un regista che ho sempre amato e che ha cambiato molti generi e ha fatto dei film importantissimi. Voglio ricordare un film che non c'entra niente, che è Master e Commander, che secondo me è uno dei suoi straordinari, il più bei film, forse il più bel film d'avventura mai fatto, insomma, ma anche Gallipoli, insomma, è un regista di serie A. Senti Daniele, tornando ai tuoi professori, quelli della scuola, che sono tanto simili anche se sono passati 15 anni a quelli di oggi, soggettivamente in Italia, ti chiedo, questi professori sono degli anti-eroi, sono proprio il contrario del Robin Williams dell'attimo fuggente, no? Eppure nel loro sforzo quotidiano c'è qualcosa di eroico, non trovi? Guarda, io sono tanti amici che sono gli insegnanti, mio padre era un insegnante, mia nonna era una maestra, quindi in realtà credo che è vero che sull'argomento c'è un pochino di retorica e c'è forse in questi ultimi anni prevale un senso depressivo, un senso di rinuncia molto forte. Come dire, l'essere alla fine sottopagati, non sentirsi più al centro, come dire, dell'origine culturale di un paese, no? Come dire, si era sperato per tanti anni che la scuola fosse così, non solo il posto in cui si bocciano quelli che non studiano e si promuovono quelli che studiano, ma fosse, come dire, un'officina culturale. Ecco, questo qui è definitivamente tramontato come ipotesi, come illusione. Quindi credo che adesso stia prevalendo un senso più depressivo, di rinuncia, come dire, pare che i segnali siano fatevi gli affari vostri, prendete lo stipendio, bocciate quelli che non studiano e smettete di sognare, ecco, questo mi sembra che sia, e credo che di conseguenza un po' di gente così stia un po' mollando la corda. Poi c'è di tutto, ovviamente, c'è di tutto, c'è il professore, come dire, che continua a crederci, che ce la mette tutta, però è come una grande onda, secondo me, che era l'onda degli anni 70, della contestazione degli anni 60, che è arrivata fino a poco tempo fa e che aveva illuso anche i professori, come dire, che da lì dentro si poteva cambiare in meglio così la società e il pensiero. Non credo che ci creda più nessuna. Carla è in collegamento da Milano all'800 24 00 24. Buonasera Carla. Buonasera a voi. Allora, che scolara del cinema sei? Dunque, poco scolare del cinema perché adesso sono anche una nonna e sono molto impegnata, quindi e poco tempo per andare al cinema, però appena posso lo faccio. Dunque, io sono stata un'insegnante, sono stata un direttore didattico e mi sono un po' rivista e ho rivisto un pochino tutta la ampissima rosa dei miei studenti. Io mi sono rivista in notte prima degli esami su come ho vissuto io i tempi della maturità, eccetera, eccetera, quindi con un grande patema d'animo, con questo studiare alla follia per fare bella figura, per fare contenta la famiglia, eccetera. E ho rivisto anche tutta quella grande quantità dei miei alunni, sia da insegnante che da direttore, e ho notato questa grande differenza. I ragazzi adesso affrontano gli esami così, non con leggerezza, non tutti, ovviamente non tutti, comunque come un obbligo, ecco, come un qualche cosa che bisogna proprio fare. Io posso dire una cosa, nella mia carriera di insegnante ho sempre cercato di entrare un pochino nell'intimo dei ragazzi, di capire, e ho notato che tantissime cose le raccontavano magari a me, non in famiglia. Sono riuscita, ecco, a entrare in questo tipo di confidenza con i ragazzi. È certo che è un risultato importante, insomma. Ho avuto tantissime soddisfazioni. Posso, se posso, visto che siamo in radio, posso anche dire che ho avuto una fascia di ragazzi che si sono rivolti a me, dopo ovviamente aver acquisito una certa confidenza, anche per problemi di ordine sessuale, che in famiglia non si sentivano, certo, non riuscivano a parlarne. Certo, certo. Ecco, e con grande soddisfazione devo dire che alcuni dei miei ragazzi, sono io che organizzo ogni anno, e alcuni dei miei ragazzi li rivedo, sono adulti, sono dei papà, sono okay, alcuni, Carla, hanno fatto una carriera, diciamo, da manager, altri fanno l'operaio, altri fanno l'idraulico, che comunque persone che sono rimaste legate non tanto per il discorso dell'insegnante quanto forse dal punto di vista umano. Perfetto, grazie Carla. Ci sono due biglietti per il cinema anche per Carla da Milano. Abbiamo un altro ascoltatore, prima però un SMS. Ho avuto un flash, va d'accordo con quello che diceva Carla, ho avuto un flash con Notte prima degli esami e con il mio di matematica in quinto ho avuto lo stesso rapporto del professore interpretato da Giorgio Faletti. Ancora un ascoltatore da Milano, si chiama Sandro ed è in collegamento all'800 24 00 24. Buonasera Sandro. Buonasera anche a Lucchetti. Io volevo citare un film abbastanza recente che si chiama Wonder Boys. Un film in cui mi sono abbastanza rivisto nel personaggio interpretato da Tobey Maguire, che è sicuramente uno studente, un diverso, diciamo, però ecco, interpreta un ruolo con molta fantasia e fa in un certo senso quello che dice il personaggio che abbiamo sentito prima dalla classe. Si costruisce lui una vita molto interessante, perché è un film molto fantasioso, anche se è basata sulle vicende di un corso universitario di scrittura creativa. E allora, Sandro da Milano dice Wonder Boys, due biglietti per il cinema anche per lui. Daniele Lucchetti, i ragazzi raccontati nel tuo film, se andiamo a vedere un po' l'età, oggi hanno 32-33 anni più o meno, e sono diventati la cosiddetta generazione 1000 euro, cioè questa generazione dei cococò, no? Una realtà che forse all'epoca era difficile immaginare, almeno in queste dimensioni. Ma guarda, non era così difficile in realtà immaginarla. Credo che nella battuta che abbiamo detto prima, cioè che quella non sarebbe diventata la classe dirigente, era abbastanza così premonitrice. Si capiva che attraverso quella qualità di scuola non si stava preparando un paese di qualità, intendo un paese che avrebbe avuto gli strumenti culturali, tecnici, tecnologici per formare una nazione più dinamica, più democratica. Ecco, questo era abbastanza chiaro, insomma. Beh, però forse queste persone di fatto sono, come dire, vittime del mondo del lavoro, non sono state in grado di, come dire, di prendere in mano le cose più importanti, per esempio la politica, no? Noi oggi abbiamo un paese governato da persone molto anziane e una classe politica forse tra le più vecchie del mondo. Ecco, dalla scuola di quegli anni non è uscita la nuova classe politica, cosa che invece successe quando facevo io il liceo. Io quando facevo il liceo la politica si faceva, era parte quotidiana della nostra attività, e di fatto moltissimi dei miei amici sono entrati come dirigenti, perché c'era, come dire, un interesse alla gestione della cosa pubblica, o qualcosa di positivo, o qualcosa a cui occorreva. Invece quegli anni di disimpegno, diciamo, quegli anni di disillusione sulla politica hanno lasciato, fatto in modo che appunto poi fossero altri a decidere per loro. Certo, no, io mi riferivo soprattutto al fatto del posto fisso, cioè di questa precarietà che forse nel 95 ancora forse si cominciava a intravedere, ma non in queste proporzioni. Daniele, ti faccio l'ultima domanda. In quale film invece tu da spettatore hai rivisto il giovane Daniele Lucchetti sui banchi di scuola? Ma in realtà forse non c'è un film che mi fotografi alla precisione. Sicuramente ci sono dei film in cui ho così annusato delle cose che mi appartenevano, che forse appartenevano, come dire, alla storia della mia famiglia. Per esempio, credo che la sequenza di scuola di Amarcord sia un qualcosa che, anche se non abbiamo vissuto una scuola di quel genere, racconta, come dire, i nostri nonni, i nostri genitori, e paradossalmente anche lo studente di 400 colpi di Truffaut, Antoine Doinel, è uno studente in cui mi identifico fortemente, anche se io ho fatto una vita molto più borghese, molto più normale, evidentemente stimola dei ragionamenti, così, dei sentimenti di identificazione, di pietà talmente forti che poi alla fine siamo un po' tutti Antoine Doinel. E grazie allora a Daniele Lucchetti per essere stato qui con noi alla Vita in un film. Grazie a voi, ciao, arrivederci. Ciao a Daniele, sono le 18:28 e 50 secondi, noi vi diamo pochi secondi per chiudere, vi diamo appuntamento a lunedì, ovviamente parleremo di paternità con Luca Argentero qui alla Vita in un film, e chiudiamo ascoltando un passaggio di un altro film che ha raccontato la scuola in Italia, Io speriamo che me la cavo, a risentirci. Andiamo, è ora di scuola. Beh, non posso lasciare l'esercizio. A scuola! Lasciatemi! Non mi chiedi! Chi lo mette? Mi sta cariando qui! Ma lo senti che non si capisce quello che dici? Devi venire a scuola assolutamente! E adesso andiamo a cercare gli altri. Dove lavorano? Barbiere sta là! Dice, ma dove cazzo vai? A scuola!